Quella sera John Summers, sistemato nel salone del miglior hotel di San Francisco, cenava con i fratelli Rodriguez de Santa Cruz che in pochi mesi avevano recuperato il loro aspetto aristocratico. Non rimaneva nessuna traccia degli irsuti cavernicoli che qualche mese prima avevano cercato loro. La fortuna l'avevano trovata lì, in pulite transazioni che potevano portare a termine dalle morbide poltrone dell'hotel con un whisky in mano, come gente civilizzata e non come zoticoni, dicevano. Ai 5 minatori cileni che si erano portati dietro alla fine del 1848 si erano aggiunti 80 contadini a giornata, gente umile, sottomessa, che non sapeva nulla di miniere, ma che imparava alla svelta, rispettava gli ordini e non si ribellava. I due fratelli li avevano messi a lavorare sulle rive dell'American River agli ordini di leali capisquadra, mentre loro si dedicavano ai trasporti e al commercio. Comprarono 2 imbarcazioni per fare la traversata da San Francisco a Sacramento e 200 muli per trasportare i giacimenti, le merci che vendevano direttamente senza passare dagli empori. Lo schiavo fuggiasco che prima faceva da guardaspalle si rivelò un asso con i numeri e adesso curava la contabilità, anche lui vestito da gran signore e con in mano un calice e un sigaro, a dispetto dei mugugni dei gringo che a fatica ne tolleravano il colore, ma non avevano altra alternativa che trattare con lui. La sua signora le manda a dire che con il prossimo viaggio del Fortuna verrà con i bambini, le cameriere e il cane. Dice di iniziare a pensare alla sua sistemazione perché non ha intenzione di vivere in albergo, comunicò il capitano a Feliciano Rodriguez de Santa Cruz. Ma che idea folle! La febbre dell'oro si esaurirà in fretta e questa città tornerà a essere il villaggio che era 2 anni fa. Già ci sono i segnali che il metallo è diminuito, non ci sono più ritrovamenti di pepite grandi come sassi. E quando tutto ciò sarà finito, a chi importerà della California? Quando arrivai qui per la prima volta sembrava un accampamento di profughi e ora si è trasformata in una città come Dio comanda. Sinceramente non credo che sparirà in un soffio. È la porta dell'Ovest dal Pacifico. È quel che dice Paolina nella sua lettera. Feliciano, segui il consiglio di tua moglie che ha un occhio di lince, lo interruppe il fratello. E comunque non c'è modo di impedirglielo. Nel prossimo viaggio verrà con me. Non dimentichiamo che è l'armatrice del Fortuna, sorrise il capitano. Servirono loro ostriche fresche del Pacifico, uno dei pochi lussi gastronomici di San Francisco, tortore ripiene di mandorle e pere sciroppate del carico di Paolina, che l'hotel aveva immediatamente comprato. Dal Cile veniva anche il vino rosso e lo champagne dalla Francia. Si era sparsa la voce dell'arrivo dei cileni con il ghiaccio e i ristoranti e gli alberghi della città si erano riempiti di avventori desiderosi di concedersi il lusso di quelle delizie fresche prima che andassero esaurite. Stavano accendendo i sigari che accompagnavano il caffè e il brandy quando John Summers sentì una manata sulla spalla che per poco non gli fece cadere il bicchiere. Si girò e si ritrovò di fronte Jacob Todd, che non vedeva da più di 3 anni, da quando l'aveva sbarcato in Inghilterra povero e umiliato. Era l'ultima persona che si aspettava di vedere e ci mise qualche secondo a riconoscerlo perché il falso missionario di quei tempi sembrava la caricatura di uno Yankee. Aveva perso peso e capelli, 2 lunghe basette gli incorniciavano la faccia. Indossava un abito a quadri di una misura troppo piccola, stivali di serpente, un incongruente cappello bianco della Virginia e dalle 4 tasche della giacca spuntavano matite, taccuini e giornali. Si abbracciarono come vecchi compagni. Jacob Todd si trovava a San Francisco da 5 mesi a scrivere articoli sulla febbre dell'oro che venivano regolarmente pubblicati in Inghilterra e anche a Boston e New York. Era giunto grazie al generoso intervento di Feliciano Rodriguez de Santa Cruz, che non aveva gettato al vento il debito che lo legava all'inglese. Da buon cileno, non dimenticava mai un favore, nemmeno un'offesa, e quando era stato informato delle sue difficoltà in Inghilterra, gli aveva mandato soldi, un biglietto e 2 righe in cui spiegava che la California era la destinazione più lontana che si potesse raggiungere prima di intraprendere il ritorno dall'altra parte. Nel 1845 Jacob Todd era sceso dall'imbarcazione del capitano Summers con rinnovata salute e pieno di energie, pronto a dimenticare l'umiliante vicenda di Valparaiso per dedicarsi anima e corpo a impiantare nel suo paese la comunità utopica che tanto aveva sognato. portava con sé il grosso quaderno ingiallito dall'uso e dall'aria di mare, fitto di annotazioni. Aveva studiato e pianificato la comunità fin nei minimi dettagli. Era certo che molti giovani, i vecchi non lo interessavano, avrebbero abbandonato la loro faticosa esistenza per unirsi nella fratellanza ideale di uomini e donne libere, all'interno di un sistema di assoluta uguaglianza, privo di autorità, poliziotti e religioni. I potenziali candidati per l'esperimento si erano rivelati molto più duri di comprendonio di quanto si era immaginato, ma dopo qualche mese ne aveva reclutati due o tre disposti a provarci. Mancava solo un mecenate che finanziasse il costoso progetto e bisognava trovare un terreno esteso perché la comunità si proponeva di vivere lontana dalle aberrazioni del mondo e doveva poter soddisfare tutte le sue necessità. Todd aveva giusto iniziato a coinvolgere un lord piuttosto bislacco che possedeva un'immensa proprietà in Irlanda, quando le voci dello scandalo di Valparaiso lo raggiunsero a Londra, incalzandolo come un cane ostinato senza dargli tregua. Anche lì le porte si chiusero per Todd. Perse gli amici, i discepoli e il nobile lo ripudiarono, e il sogno dell'utopia andò a farsi benedire. Ancora una volta cercò di trovare sollievo nell'alcol e sprofondò nuovamente nel pantano dei brutti ricordi. Viveva come un topo in una pensione di infima categoria quando lo raggiunse il salvifico messaggio dell'amico cileno. Non ci pensò su due volte, cambiò il cognome e si imbarcò per gli Stati Uniti, pronto ad andare incontro a un nuovo e sfolgorante destino. Suo unico obiettivo era seppellire l'infamia e vivere nell'anonimato fino a quando fosse sorta l'opportunità di riavviare l'idilliaco progetto. La prima cosa da fare era trovarsi un impiego. La sua rendita si era ridotta e i gloriosi tempi dell'ozio erano ormai finiti. Arrivato a New York, si presentò in un paio di redazioni di giornale dove si offrì come corrispondente dalla California. Poi intraprese il viaggio per l'Ovest, passando per l'Istmo di Panama, perché non ebbe il coraggio di farlo passando per lo Stretto di Magellano e di rimettere piede a Valparaiso, dove l'onta lo attendeva intatta e la bella Miss Rose avrebbe di nuovo sentito il suo nome disonorato. In California, l'amico Feliciano Rodriguez de Santa Cruz lo aiutò a sistemarsi e a trovare un impiego presso il primo giornale nato a San Francisco. Jacob Todd, ora convertitosi in Jacob Fremont, per la prima volta nella sua vita si mise a lavorare, scoprendo con stupore che gli piaceva. Percorreva la regione scrivendo a proposito di tutto quello che risvegliava la sua attenzione, massacri degli indiani compresi. Raccontava degli immigranti che provenivano da ogni angolo del pianeta, della sfrenata speculazione dei mercanti, della sbrigativa giustizia dei minatori e dell'immoralità diffusa. Uno dei suoi reportage per poco non gli costò la vita. Descrisse con eufemismi, ma con perfetta chiarezza, il modo in cui lavoravano alcune bische con dadi segnati, carte truccate, liquori adulterati. Riferì di droghe, di prostituzione e della pratica di intossicare con l'alcol le donne fino a lasciarle prive di sensi per poi vendere a un dollaro il diritto di violentarle a tutti gli uomini che desiderassero partecipare al gioco. Il tutto sotto la protezione delle stesse autorità che dovrebbero combattere tali vizi, scrisse a mo' di conclusione. Gli saltarono addosso i gangster, il capo della polizia e i politici. Dovette dissolversi nel nulla per un paio di mesi finché gli animi non si furono raffreddati. Malgrado il passo falso, i suoi articoli uscivano regolarmente e si stava affermando come voce rispettata. Come disse testualmente all'amico John Somers, cercando l'anonimato, stava trovando la celebrità. Alla fine della cena, Jacob Fremont, alias Jacob Todd, invitò gli amici allo spettacolo del momento, una cinese che si poteva guardare ma non toccare. Si chiamava A Toy e si era imbarcata in un clipper con il marito, un commerciante attempato che aveva avuto il buon gusto di morire in alto mare lasciandola libera. Lei non perse tempo in lamentazioni vedovili e per rendere più vivace il resto della traversata divenne l'amante del capitano, che si rivelò uomo generoso. Una volta scesa a San Francisco, ricca e pimpante, notò gli sguardi lascivi che la seguivano ed ebbe la brillante idea di farseli pagare. Affittò due camere, praticò dei fori nella parete divisoria e per un'oncia d'oro vendeva il privilegio di guardarla. Gli amici seguirono Jacob Fremont di buon grado e, scucendo qualche dollaro, si comprarono il diritto di saltare la fila e di entrare tra i primi. Vennero condotti in una stanza piccola, satura di fumo, di tabacco, dove si pigiavano una dozzina di uomini con il naso appiccicato al muro. Si affacciarono agli scomodi buchi, sentendosi come ridicoli scolaretti, e nell'altra stanza videro una bella ragazza con indosso un kimono aperto su ambo i lati, dalla vita ai piedi. Sotto era nuda. Gli spettatori ruggivano ad ogni singolo e languido movimento che rivelava una parte del suo corpo delicato. John Somers e i fratelli Rodriguez de Santa Cruz si piegarono in due dal ridere, senza riuscire a credere che il bisogno di donne fosse così forte. Si separarono e il capitano e il giornalista andarono a farsi il bicchiere della staffa. Dopo aver ascoltato il resoconto dei viaggi e delle avventure di Jacob, il capitano decise di confidarsi. Si ricorda di Eliza, la bambina che viveva con i miei fratelli a Valparaiso? Perfettamente. Beh, è scappata di casa quasi un anno fa e ho buoni motivi per credere che sia qui in California. L'ho cercata, ma nessuno ha sentito parlare di lei o di qualcuno che corrispondesse alla sua descrizione. Le uniche donne sole che sono arrivate qui sono prostitute. Non so come abbia fatto ad arrivare qui, nel caso in cui sia arrivata. L'unica cosa certa è che partì alla ricerca del suo innamorato, un giovane cileno dal nome Joaquín Andieta. Joaquín Andieta? Lo conosco, era mio amico in Cile. Beh, ricercato dalla giustizia, l'accusa è di furto. Non ci posso credere. Andieta era un giovane molto dignitoso. Aveva un orgoglio e un senso dell'onore tale che era persino difficile avvicinarlo. E mi dice che lui ed Eliza sono innamorati? So solo che si era imbarcato per la California nel dicembre 1848 e che 2 mesi dopo la ragazza è sparita. Mia sorella è convinta che sia venuta qui a cercare Andieta, anche se non so immaginare come ci sia riuscita senza lasciare tracce, visto che lei si muove per gli accampamenti e i paesi del nord, magari avrà modo di sapere qualcosa. Farò il possibile, capitano. Io e i miei fratelli le saremo eternamente grati, Jacob. Eliza Somers rimase con la comitiva di Joe Spaccaossa. Suonava il piano e divideva a metà le mance con la tenutaria. Comprò un canzoniere di musica americana e uno di musica latina per vivacizzare le serate e durante le ore di ozio, che erano parecchie, insegnava a leggere al bambino indiano, collaborava alle varie faccende quotidiane e cucinava. Come dicevano quelli della compagnia, non si era mai mangiato meglio. Con gli stessi ingredienti di sempre, carne secca, fagioli e pancetta, cucinava piatti saporiti sull'onda dell'entusiasmo del momento. Comprava condimenti messicani e li aggiungeva alle ricette cilene di mamma Fresia, ottenendo deliziosi risultati. Preparava torte semplicemente a base di strutto, farina e frutta in conserva, ma quando riusciva a procurarsi uova e latte, la sua ispirazione raggiungeva vette gastronomiche sovrumane. Babalù, il cattivo, non condivideva l'idea che fossero gli uomini a cucinare, ma siccome era il primo a divorare i banchetti del giovane pianista, optò per tenersi commenti sarcastici per sé. Abituato a montare la guardia durante la notte, il gigante passava gran parte della giornata a dormire di gusto, ma appena il profumino delle pignatte raggiungeva le sue narici, da drago si svegliava di soprassalto e si insediava di fianco alla cucina a sorvegliare. Era afflitto da un appetito insaziabile e non c'era provvista di cibo sufficiente a riempire la sua pancia. Prima dell'arrivo del cilenito, come chiamavano il presunto Elias Andieta, la sua dieta di base era costituita dagli animali che riusciva a cacciare, che poi tagliava per il lungo, condiva con un pugno di sale grosso e metteva sulla brace fino a carbonizzarli. In questo modo poteva trangugiarsi un cervo in 2 giorni. A contatto con la cucina del pianista gli si raffinò il palato, andava quotidianamente a caccia, sceglieva le prede più delicate e gliele consegnava pulite e spellate. Durante gli spostamenti, Eliza capitanava la comitiva a cavallo del suo robusto ronzino, che, malgrado il triste aspetto, si rivelò nobile come un sauro puro sangue, con l'inutile carabina di traverso sulla sella e il bambino del tamburo in groppa. Si sentiva così comoda nei vestiti da uomo che si domandava se un giorno sarebbe stata di nuovo in grado di vestirsi da donna. Di una cosa era certa: non avrebbe indossato un bustino nemmeno il giorno del suo matrimonio con Joaquín Andieta. Se arrivavano a un fiume, le donne ne approfittavano per raccogliere l'acqua nei barili, per lavare gli indumenti e farsi il bagno. Quelli erano i momenti più difficili per lei. Doveva inventarsi delle scuse sempre più arzigogolate per lavarsi senza testimoni. Joe Spaccaossa era una robusta olandese della Pennsylvania che aveva trovato il suo destino nello sconfinato ovest. Aveva un talento da prestigiatore con le carte e i dadi. Barare era la sua passione. Si era guadagnata da vivere con le scommesse fino a quando non le era venuto in mente di mettere in piedi l'affare delle ragazze e di percorrere la veta madre in cerca d'oro, come lei definiva quel modo di svolgere l'attività estrattiva. Era certa che il giovane pianista fosse omosessuale e proprio per questo gli si affezionò in modo particolare, come era successo per il piccolo indiano. Non permetteva che le ragazze si burlassero di lui o che Babalù gli si rivolgesse con dei soprannomi. Non era colpa di quel povero ragazzo l'essere nato senza un pelo di barba e con quel fisico da grissino, come non era sua quella di essere nata uomo con corpo da donna. Erano scherzetti estemporanei che Dio faceva tanto per dare noia. Aveva comprato il bambino per $30 da alcune guardie yankee che avevano sterminato il resto della tribù. A quel tempo aveva 4-5 anni, non era che uno scheletrino con la pancia gonfia di vermi, ma dopo pochi mesi di alimentazione forzata e di guerra ai capricci, perché non spaccasse tutto quello che gli passava tra le mani, né prendesse a testate le ruote dei carri, la creatura era cresciuta di un palmo ed era emersa la sua vera natura da guerriero. Era stoico, ermetico e paziente. L'aveva chiamato Tom senza tribù perché non dimenticasse il dovere della vendetta. Il nome è inseparabile dall'essere, dicevano gli indiani, e anche Joe ci credeva, e non a caso si era inventata il cognome che portava. Le colombe infangate della comitiva erano due sorelle del Missouri che avevano compiuto quel lungo viaggio via terra e strada facendo avevano perso la famiglia. Esther, una diciottenne fuggita dal padre, un fanatico religioso che la frustava, e una bella messicana, figlia di padre gringo e madre india, che si spacciava per bianca e aveva imparato quattro frasi in francese per confondere i distratti, perché, secondo una credenza popolare, le francesi erano più esperte. Quella società di avventurieri e ruffiani aveva anche le sue regole da aristocrazia razziale. I bianchi accettavano le meticce color cannella, ma rifiutavano qualsiasi mescolanza con i neri. Le quattro donne erano grate al loro destino per aver fatto incontrare loro Joe Spaccaossa. Esther era l'unica senza esperienza precedente, ma le altre avevano lavorato a San Francisco e conoscevano la vita dei bassi fondi. Non avevano avuto in sorte saloni d'alto bordo, avevano sperimentato botte, malattie, droghe, protettori malvagi, avevano contratto un'infinità di infezioni. Erano state sottoposte a cure brutali e a talmente tanti aborti che erano diventate sterili. Condizione che, lungi dall'intristirle, consideravano una benedizione. Da quella vita di abiezione, Joe le aveva riscattate portandosele lontano, poi le aveva sostenute nel lungo martirio dell'astinenza per guarirle dalla dipendenza dall'oppio e dall'alcol. Le donne l'avevano ripagata con lealtà filiale perché lei per di più le trattava con giustizia e non le sfruttava. La temibile presenza di Babalù scoraggiava i clienti violenti e gli insopportabili ubriaconi. Mangiavano bene e i carri itineranti erano un buon incentivo per lo spirito e la salute. In quelle colline e in quei boschi sconfinati si sentivano libere. La loro vita non era affatto facile né romantica, ma avevano risparmiato un po' di soldi e se ne sarebbero potute andare se l'avessero voluto. Ma non lo facevano perché quel piccolo gruppo era quanto di più simile a una famiglia essi avessero. Anche le ragazze di Joe Spaccaossa erano convinte che quel giovane Elia Sandieta, rachitico e dalla voce flautata, fosse dell'altra sponda. Ciò lasciava loro la possibilità di svestirsi tranquillamente, lavarsi e parlare di qualsiasi argomento in sua presenza, come fosse una di loro. L'accettarono con tale naturalezza che spesso Eliza dimenticava il suo ruolo maschile, ma provvedeva poi Babalù a ricordarglielo. Si era ripromesso di trasformare quel pusillanime in un vero uomo e lo osservava da vicino, pronto a correggerlo quando si sedeva con le gambe giunte o si scuoteva la corta capigliatura con un gesto tutt'altro che virile. Le insegnò a tenere pulite e oliate le armi, ma perse la pazienza cercando di migliorarne la mira. Ogni volta che premeva il grilletto, il suo allievo chiudeva gli occhi. Non si lasciava impressionare dalla Bibbia di Elia Sandieta, al contrario sospettava che la usasse per giustificare i suoi modi ed era dell'avviso che se il ragazzo non pensava di convertirsi in un maledetto predicatore, perché diavolo leggeva scempiaggini, tanto valeva leggere dei libri sconci, magari poi gli venivano delle idee da maschio. Babalù riusciva a stento a scrivere il suo nome e leggeva a fatica, ma non l'avrebbe ammesso neanche morto. Diceva di avere problemi di vista e di non distinguere bene le lettere, ma poi riusciva a sparare a 100 metri di distanza in mezzo agli occhi a una lepre terrorizzata. Chiedeva spesso a Cilenito di leggere ad alta voce i vecchi giornali e i libri erotici della Spaccaossa, non tanto per i passaggi triviali quanto per la trama che riusciva sempre a commuoverlo. Si trattava invariabilmente di amori incendiari tra un membro della nobiltà europea e una plebea, o del contrario, di una dama aristocratica che perdeva la testa per un contadino, comunque onesto e orgoglioso. In questi racconti le donne erano sempre belle e gli amanti instancabili e intensi. Lo sfondo era costituito da una profusione di baccanali, ma a differenza degli altri romanzetti pornografici da 10 centesimi che si vendevano in quei paraggi, questi avevano un intreccio. Eliza leggeva ad alta voce, senza mostrare la minima sorpresa, come se in vita sua non avesse fatto altro che praticare i peggiori vizi, mentre intorno a lei Babalù e 3 delle colombe ascoltavano a bocca aperta. Esther non partecipava a queste riunioni, perché descrivere quegli atti le sembrava un peccato più grande che metterli in pratica. Eliza aveva le orecchie in fiamme, ma non poteva fare a meno di riconoscere l'inaspettata eleganza con cui quelle porcherie erano state redatte. Alcune frasi le ricordavano lo stile impeccabile di Miss Rose. Joe Spaccaossa, cui la passione della carne non poteva interessare di meno e che pertanto ovviamente si annoiava con quelle letture, si preoccupava personalmente di impedire che anche una di quelle parole potesse ferire le innocenti orecchie di Tom senza tribù. Lo sto educando per fare di lui un capo indiano, non per fare il magnaccia, diceva, e determinata come era a farne un uomo, proibiva al ragazzino di chiamarla nonna. Non sono la nonna di nessuno, per tutti i diavoli, sono la Spaccaossa, mi hai capito o no? Maledetto moccioso. Sì, nonna. Babalù, il cattivo, un ex carcerato di Chicago, aveva attraversato a piedi il continente molto prima che scoppiasse la febbre dell'oro. Parlava le lingue degli indiani e per sopravvivere aveva fatto di tutto, dall'attrazione in un circo ambulante dove riusciva a sollevarsi un cavallo sopra la testa e a trascinare con i denti un vagone carico di sabbia, allo scaricatore nel porto di San Francisco. Lì era stato scoperto dalla Spaccaossa e assunto nella comitiva. Poteva svolgere il lavoro di diversi uomini e per la sorveglianza bastava lui. Insieme potevano mettere in fuga quanti avversari volessero, come avevano dimostrato in più di una occasione. Devi essere forte o ti distruggeranno, Cilenito, consigliava a Eliza. Non credere che io sia sempre stato forte come sono adesso. Prima ero come te, deboluccio, un po' tardone, ma poi mi sono messo a sollevare pesi e guarda ora che muscoli. Adesso nessuno osa misurarsi con me. Babalù, tu sei alto più di 2 metri e pesi quanto un vitello, non sarò mai come te. Le dimensioni non c'entrano niente, caro mio, sono le palle quelle che contano. Io sono sempre stato grande, eppure ridevano di me. Chi ti prendeva in giro? Ah, oh, tutti, persino mia madre, che riposi in pace. Ti voglio dire una cosa che non sa nessuno. Dimmi, ti ricordi di Babalù il buono? Ero io prima, ma da 20 anni sono Babalù il cattivo e le cose vanno molto meglio. Colombe infangate. A dicembre l'inverno arrivò all'improvviso sulle pendici della Sierra e migliaia di minatori dovettero abbandonare le loro parcelle di terra per trasferirsi nei paesi in attesa della primavera. La neve ricoprì con un manto pietoso il vasto territorio perforato da quelle avide formiche e l'oro sopravvissuto tornò a riposare nel silenzio della natura. Joe Spaccaossa guidò la carovana in uno dei piccoli paesi appena sorti lungo la Veta Madre e affittò un capannone in cui avrebbero passato l'inverno. Vendette i muli, comprò una grande bacinella di legno per il bagno, una cucina, 2 stufe, delle pezze di stoffa ordinaria e per tutti stivali russi che con la pioggia e il vento sarebbero risultati indispensabili. Mise la comitiva a grattare via il sudiciume dal capannone e a fare delle tende per separare le stanze e installò i letti a baldacchino, gli specchi dorati e il pianoforte. Subito dopo iniziò il giro di visite di cortesia nelle taverne, nell'emporio, nella fucina, i poli dell'attività sociale. A mo' di giornale, il paese si avvaleva di un foglio di notizie preparato con un'antiquata macchina da stampa che aveva attraversato controvoglia il continente e che Joe impiegò per pubblicizzare con discrezione la sua attività. Oltre alle ragazze, offriva il migliore rum cubano e giamaicano, come lo definiva, anche se in realtà si trattava di un beverone da cannibali in grado di far deviare la bussola dell'anima. Libri piccanti e un paio di tavoli da gioco. I clienti accorsero prontamente. C'era un altro bordello, ma le novità erano sempre gradite. La tenutaria dell'altro esercizio dichiarò tacitamente una guerra di menzogne contro i rivali, ma si astenne da un confronto a viso aperto con il formidabile duo Joe Spaccaosse e Babalù il Cattivo. Nel capannone ci si sollazzava dietro gli improvvisati tendaggi, si ballava sugli accordi del pianoforte e si giocavano somme considerevoli con la sorveglianza della padrona, che sotto il suo tetto non accettava né sobillatori né altri bari oltre a se stessa. Eliza vide uomini perdere in un paio di notti guadagni di mesi di fatiche titaniche e piangere poi tra le braccia delle ragazze che avevano contribuito a spennarli. Nel giro di poco tempo i minatori si affezionarono a Joe. Nonostante il suo aspetto da corsaro, la donna aveva un cuore di madre che quell'inverno le circostanze misero alla prova. Si diffuse un'epidemia di dissenteria che prostrò metà degli abitanti e ne fece fuori più di uno. Non appena veniva a sapere che qualcuno in qualche capanna lontana era in punto di morte, Joe chiedeva in prestito alla fucina un paio di cavalli e si recava con Babalù a soccorrere il disgraziato. Spesso gli accompagnava il fabbro, un quacquero eccezionale, che, pur disapprovando l'attività del donnone, era sempre disposto ad aiutare il prossimo. Joe preparava da mangiare per il malato, lo puliva, gli lavava i vestiti e lo consolava rileggendogli per la centesima volta le lettere della famiglia lontana. E intanto Babalù e il fabbro spalavano la neve, cercavano acqua, tagliavano la legna e la impilavano di fianco alla stufa. Se l'uomo stava molto male, Joe lo avvolgeva nelle coperte, lo metteva di traverso come un sacco sul suo cavallo e se lo portava a casa dove le donne si occupavano di lui con vocazione da infermiere, felici di avere l'opportunità di sentirsi virtuose. Non potevano fare molto, tranne obbligare i pazienti a bere litri di tè zuccherato per non disidratarsi del tutto, tenerli puliti, ben coperti e a riposo. Con la speranza che la dissenteria non gli prosciugasse l'anima e la febbre non gli cuocesse il cervello. Alcuni morivano, mentre altri impiegavano intere settimane per tornare in vita. Joe era l'unica a ingegnarsi per sfidare l'inverno e a recarsi fino alle capanne più isolate, così le toccò scoprire corpi trasformati in statue di cristallo. Non tutti erano vittime delle malattie, a volte c'era chi si era sparato un colpo in bocca perché non ce la faceva più a sopportare i crampi alla pancia, la solitudine e il delirio. Un paio di volte Joe dovette chiudere l'esercizio perché il capannone era disseminato di stuoie per terra e le sue colombe non riuscivano a curare tutti i pazienti. Lo sceriffo del paese tremava quando la vedeva comparire con la sua pipa olandese e il suo imperioso vocione da profeta a reclamare aiuto. Nessuno poteva negarglielo. Gli stessi uomini che con le loro angherie avevano procurato la cattiva fama al paese si mettevano mansuetamente a suo servizio. Non potevano contare su niente che somigliasse a un ospedale. L'unico medico era presissimo e lei si assumeva con naturalezza il compito di mobilitare le forze quando si trattava di un'emergenza. I fortunati cui salvava la vita si trasformavano in suoi devoti debitori e fu così che durante quell'inverno riuscì a tessere la rete di contatti che l'avrebbe sostenuta all'epoca dell'incendio. Il fabbro si chiamava James Morton ed era uno dei pochi esemplari di persona buona. Provava un forte amore per l'umanità intera, perfino per i suoi nemici ideologici, che considerava in errore per ignoranza e non per intrinseca cattiveria. Incapace di commettere un atto vile, non poteva concepire l'iniquità nel prossimo. Preferiva credere che la malvagità altrui fosse un'aberrazione del carattere, guaribile con il calore della pietà e dell'affetto. Proveniva da una nutrita stirpe di quaccheri dell'Ohio, dove aveva collaborato con i suoi fratelli in una catena clandestina di solidarietà per gli schiavi fuggiaschi che venivano nascosti e portati negli Stati liberi e in Canada. Con la loro attività si erano attirati le ire degli schiavisti e la notte in cui la banda aveva assaltato la fattoria e le aveva dato fuoco, la famiglia aveva osservato lo spettacolo immobile perché, fedele al suo credo, non poteva sollevare le armi contro i propri simili. I Morton avevano dovuto abbandonare la loro terra e si erano dispersi, ma si erano mantenuti in stretto contatto perché appartenevano alla rete umanitaria degli abolizionisti. A James, il fabbro, cercare oro non sembrava un mezzo onorevole per guadagnarsi da vivere, perché non si produceva nulla e non si prestava alcun servizio. La ricchezza svilisce l'anima, complica l'esistenza e genera infelicità, sosteneva. Inoltre l'oro era un metallo duttile, inadatto a fabbricare strumenti, e lui non riusciva a comprendere il fascino che esercitava su tutti. Alto, robusto, con una fitta barba color nocciola, occhi celesti e braccia forti segnate da innumerevoli scottature, illuminato dai bagliori della sua fucina, sembrava la reincarnazione del dio Vulcano. In paese c'erano solo tre quaqueri, gente tutta lavoro e famiglia, sempre contenta del proprio destino. Erano astemi, evitavano i bordelli ed erano gli unici che non bestemmiavano. Si riunivano con regolarità per le loro pratiche di fede senza farsi tanto notare, predicavano con l'esempio nella paziente attesa dell'arrivo di un gruppo di amici dell'Est che avrebbero ingrossato la comunità. Morton frequentava il capannone della Spaccaossa per aiutare le vittime dell'epidemia e fu lì che conobbe Esther. Andava a trovarla e pagava il servizio completo, solo per rimanere seduto accanto a lei a chiacchierare. Non riusciva a capire perché avesse scelto quel tipo di vita. «Fra questo e le frustate di mio padre preferisco mille volte la vita di adesso». «Perché ti batteva, Esther?» Ma mi accusava di provocare la lussuria e di indurre al peccato. Credeva che se Eva non lo avesse tentato, Adamo sarebbe ancora in paradiso. Forse aveva ragione, visto come mi guadagno da vivere. Ci sono altri lavori, Esther. Oh, questo non è così terribile, James. Chiudo gli occhi e non penso a niente. Si tratta solo di pochi minuti che passano in fretta.